A volte nemmeno il fatto di impiegare in un'operazione una massa enorme di truppe basta provare che sia quella l'operazione reale. Infatti, la si può eseguire per davvero, benché si tratti solo di una finta, allo scopo di rendere più credibile la finta stessa. Ah, se io avessi il tempo di raccontarti le campagne di Napoleone da questo punto di vista, ti assicuro che quei semplici, classici movimenti che noi studiamo e che tu ci vedrai fare durante le manovre per il semplice piacere, tu di passeggiare in campagna da quel lazzarone che sei, ma no, perdonami, lo so che non stai bene. Ecco, se si è in guerra e ci si sente dietro la vigilanza, il ragionamento, le profonde ricerche del comando supremo, ci si emoziona guardandole come a guardare la semplice luce di un faro, luce materiale, sì, ma emanazione dell'intelletto, che fruga lo spazio per segnalare il pericolo ai naviganti. Ma io forse faccio addirittura male a parlarti soltanto di letteratura di guerra. In realtà, com'è la costituzione del suolo, la direzione del vento e l'esposizione alla luce indicano da che parte crescerà un albero, così le condizioni in cui si svolge una campagna, le caratteristiche del paese in cui si manovra, determinano, in qualche modo, e limitano i piani fra i quali il generale è chiamato a scegliere. Tanto che lungo le catene montuose e in un sistema di vallate in certe pianure e quasi con il carattere di inesorabilità e di grandiosa bellezza tipico delle valanghe che è possibile prevedere l'avanzata di un esercito. Adesso mi stai negando quell'autonomia del capo, quella capacità di divinazione dell'avversario di fronte ai suoi piani che mi concedevi poco fa. Ma niente affatto! Ricordi quel libro di filosofia che leggevamo insieme a Balbec? La ricchezza del mondo dei possibili in rapporto al mondo reale? Ebbene, è così anche nell'arte militare. In una data situazione, ad imporsi saranno quattro diversi piani e fra questi il generale avrà la possibilità di scegliere, così come una malattia è suscettibile di evoluzioni diverse, a ciascuna delle quali il medico deve trovarsi preparato. E di nuovo allora la debolezza e la grandezza umane creeranno ulteriori motivi di incertezza. Fra quei quattro piani, infatti, mettiamo che per ragioni contingenti, come dei fini accessori da conseguire o l'incalzare del tempo o la scarsa consistenza e cattivi rifornimenti dei suoi effettivi, il generale preferisca il primo piano, che è sì meno perfetto, ma di esecuzione meno dispendiosa, più rapida, e ha come teatro un paese più ricco, più adatto ad approvvigionare il suo esercito. Prese le mosse da questo piano, che il nemico, dapprima incerto, sarà ben presto in grado di decifrare, può darsi che egli non ci riesca, frenato da ostacoli eccessivi, e ciò che io chiamo l'alea derivante dalla debolezza umana. Frenato, dicevo, lo abbandoni e provi con il secondo, il terzo, il quarto piano. Ma può anche darsi che abbia provato col primo, e in questo sta ciò che io chiamo la grandezza umana soltanto per finta, per impegnare l'avversario in modo da sorprenderlo là dove non pensava di venire attaccato. È così che, a Ulm, mentre aspettava il nemico ad ovest, Mack fu aggirato da nord, dove credeva di non correre alcun rischio. L'esempio del resto non è dei migliori e Ulm è piuttosto una battaglia d'aggiramento che il futuro ci riproporrà perché non è soltanto un esempio classico cui potranno ispirarsi i generali, ma una forma in qualche modo necessaria. Necessaria fra varie altre, il che lascia impregiudicata la scelta e la varietà, come un tipo di cristallizzazione. Ma tutto ciò non conta perché questi schemi sono malgrado tutto artificiosi. Ritorno al nostro libro di filosofia. È come per i principi razionali o per le leggi scientifiche. La realtà più o meno vi si conforma, ma ricordi il grande matematico Poincaré? Non è detto che la matematica sia rigorosamente esatta. Gli stessi regolamenti di cui ti ho parlato, in fin dei conti, hanno un'importanza secondaria e del resto ogni tanto vengono cambiati. Per esempio, noi in cavalleria Facciamo riferimento al servizio in campagna del 1895, che si può considerare obsoleto dal momento che si basa sulla vecchia e desueta dottrina secondo la quale lo scontro di cavalleria si riduce in pratica ad avere un semplice effetto morale grazie al turbamento che la carica produce nell'avversario. Ora, i più perspicaci fra i nostri maestri, tutti i migliori elementi della cavalleria e in particolare il comandante di cui ti parlavo, prevedono invece che a decidere sarà una vera e propria mischia, dove si combatterà la sciabola e alla lancia e il più tenace prevarrà non solo moralmente o per suggestione emotiva, ma proprio materialmente. Saint-Loup ha ragione ed è probabile che il prossimo servizio in campagna recherà traccia di questa evoluzione, intervenne il mio vicino. Il tuo consenso non mi giunge certo sgradito, visto che il mio amico, a quanto pare, è più impressionato dai tuoi giudizi che dai miei, disse ridendo Saint-Loup. Sia che la nascente simpatia fra il suo collega e me lo indispettisse un poco, sia che gli sembrasse gentile consacrarla con una constatazione ufficiale. Del resto, ho forse fin troppo sminuito l'importanza dei regolamenti. Cambiano, questo è un fatto, ma intanto determinano la situazione militare, i piani di campagna e le concentrazioni di forze. Se riflettono una concezione strategica sbagliata, possono diventare il principio, l'avvio della disfatta. Per te sono tutte cose un po' troppo tecniche, aggiunse a mio beneficio. In fondo non dimenticare che ciò che accelera l'evoluzione dell'arte della guerra sono, in primo luogo, le guerre stesse. Nel corso di una campagna relativamente lunga, vediamo ciascuno dei belligeranti mettere a profitto le lezioni fornitegli dai successi e dagli errori dell'avversario, perfezionare i metodi dell'altro, il quale a sua volta si evolve. Ma tutto questo appartiene al passato. Con i formidabili progressi dell'artiglieria, le guerre del futuro, se ci saranno ancora guerre, risulteranno così brevi che, prima che ci si possa giovare della lezione, la pace sarà bella e fatta. Non essere così suscettibile, replicai a Saint-Loup in risposta a quanto lui aveva detto prima delle ultime frasi. Mi sembra di averti ascoltato con sufficiente avidità. «Se me lo consenti e prometti di non impermalirti più», riprese l'amico di Saint-Loup, «a ciò che hai appena detto aggiungerò che il riprodursi e il sovrapporsi delle battaglie non dipendono solo dal pensiero dello stratega. Può succedere che un suo errore, per esempio un inadeguato apprezzamento del valore dell'avversario, lo induca ad esigere dalle truppe sacrifici esagerati, sacrifici che certe unità compiranno con così sublime abnegazione da rendere il loro ruolo analogo a quello di altre unità in altre consimili battaglie e da farle citare nella storia, accanto a queste, come esempi intercambiabili. Per restare al 1870, la guardia prussiana a Saint-Privat, i fucilieri algerini a Freschwiller e a Wissembourg. Ah, intercambiabili, giustissimo, perfetto, che acume! Esclamò Saint-Loup. Le ultime citazioni non mi lasciavano indifferente, come ogni volta che al di sotto del particolare mi si faceva intravedere il generale. Ma il genio dello stratega, era questo ad interessarmi, avrei voluto rendermi meglio conto in che consistesse, quali sarebbero state in una determinata circostanza, dove un comandante privo di genialità non avrebbe potuto resistere all'avversario, le mosse del comandante geniale per ristabilire le compromesse sorti della battaglia, cosa che, secondo Saint-Loup, non solo era possibilissima, ma era stata realizzata parecchie volte da Napoleone. E sollecitavo, per capire che cosa fosse il valore militare, dei confronti fra i generali che conoscevo di fama, chi fra loro possedesse in maggior misura l'indole del capo o fosse più dotato di qualità tattiche, a rischio di annoiare i miei nuovi amici, i quali, per la verità, non lo davano a vedere e mi rispondevano con infaticabile bontà. Mi sentivo separato, non soltanto dalla grande notte gelata che si stendeva in lontananza e nella quale ogni tanto sentivamo il fischio di un treno che rendeva ancora più vivo il piacere d'essere lì o i rintocchi di un'ora che, per fortuna, era ancora distante da quella in cui i miei giovani amici avrebbero dovuto riaffibbiarsi le sciabole e tornare in caserma, ma anche da qualsiasi preoccupazione esteriore e quasi persino dal ricordo di Madame de Guermantes, grazie alla bontà di Saint-Loup, che sommandosi a quella dei suoi amici acquistava, per così dire, un maggiore spessore, e grazie anche al calore di quella piccola sala da pranzo, al sapore dei piatti raffinati che ci venivano serviti. Lusingavano questi ultimi la mia immaginazione non meno che il mio palato. A volte il frammento di natura dal quale erano stati estratti, rugosa acqua santiera di un'ostrica con nel fondo qualche residua goccia d'acqua salata o tralcio nodoso, pampini ingialliti di un grappolo d'uva, le circondava ancora, incommestibile, poetico e lontano come un paesaggio, facendo sì che, nel corso del pranzo, si succedessero l'evocazione di una siesta sotto una vigna o quella di una gita in mare. Altre sere, invece, era il cuoco a mettere in risalto questa originale particolarità dei cibi, che egli presentava dentro la sua cornice naturale come un'opera d'arte, e un pesce bollito veniva servito in un lungo piatto di terracotta dove, stagliandosi in rilievo su un tappeto d'erbe azzurrastre, infrangibile ma ancora guizzante per essere stato gettato vivo nell'acqua bollente, contornato da un ovale di conchiglie e di minuscoli animali satelliti, granchiolini, gamberetti, cozze, sembrava far parte di una ceramica di Bernard Palissy. «Sono geloso, sono furioso», mi disse Saint-Loup un po' ridendo e un po' sul serio, alludendo alle interminabili confabulazioni intercorse a parte fra me e il suo amico. «Lo trovate più intelligente di me? Lo amate più di me? E così, insomma, non avete più occhi che per lui?» Gli uomini che amano una donna alla follia e vivono in compagnia di donnaioli si permettono frasi scherzose che altri, considerandole meno innocenti, non oserebbero pronunciare. Non appena la conversazione diventava generale, si evitava di parlare di Dreyfus per paura di urtare Saint-Loup. Tuttavia, la settimana successiva, due commilitoni fecero notare la singolarità del fatto che, pur vivendo in un ambiente militare, egli fosse tanto favorevole a Dreyfus, quasi antimilitarista. «Ma è che», intervenni io per non entrare nei particolari, «l'influenza dell'ambiente non è poi così importante come si crede». «Certo», calcolavo di non spingermi oltre, non avrei ripreso le riflessioni esposte a Saint-Loup alcuni giorni prima. Ciò nonostante, poiché almeno quelle parole gliele avevo dette quasi testualmente, stavo per scusarmene aggiungendo «è appunto ciò che l'altro giorno», ma non avevo tenuto conto di un risvolto della garbata ammirazione che Roberta aveva per me e per alcune altre persone. Tale ammirazione era integrata da una così totale assimilazione delle loro idee che gli bastavano 48 ore per dimenticarsi che quelle idee non erano sue. Così, riguardo alla mia modesta tesi, Saint-Loup, esattamente come se essa dimorasse da sempre nel suo cervello e io non facessi che seguire le sue orme, credette di dovermi dare la sua approvazione e augurarmi un caloroso benvenuto. «Ma certo, l'ambiente non ha alcuna importanza!» E con forza, come temendo che l'interrompessi o lo fraintendessi, «l'unica vera influenza è quella dell'ambiente intellettuale. Ciascuno è l'uomo della propria idea». Fece una breve pausa, sorrise come uno che avesse ben digerito, lasciò cadere il monocolo e, posando su di me uno sguardo penetrante, «tutti gli uomini che hanno la stessa idea sono simili», mi disse in tono di sfida. Evidentemente aveva dimenticato che, soltanto pochi giorni prima, ero stato io a dirgli le cose di cui, in compenso, si era così perfettamente ricordato.